Nel 2009 Eleutera ha pubblicato un lessico libertario che si intitola Né obbedire né comandare. L'ha scritto Francesco Codello. La voce che sto per leggere è Obbedire, disobbedire. Nel mio spirito io porto accesa la bella luce dell'entusiasmo ardente. Amo la libertà più della vita e non sono nato per abbassare la testa. Ismael Serna, Rivelazioni 2006. Il dizionario definisce il termine obbedire come il sottomettersi alla volontà altrui ed eseguire gli altrui comandamenti, ovvero lasciarsi governare. Per noi obbedire è cessare di vivere nel momento stesso in cui siamo sottomessi a una libertà esterna, è cessare di essere interamente noi stesse e sminuirci in modo proporzionale a quanto più aumenta la potenza di colui che comanda. E ancora annichilirsi, farsi assorbire da una personalità estranea, essere una forza meccanica, un oggetto, una cosa passiva al servizio di un dominante. Charles Alexandre Obeir in Autorivari, Enciclopedia Anarchica, 1934. Tutta l'organizzazione sociale attuale è fondata sull'obbedienza e ciascuna di noi è chiamata sempre, via via che la vita scorre, a obbedire a qualcuno. Obbediamo sostanzialmente per due ragioni. Perché siamo costretti, costrette a farlo da un'autorità esterna che si impone attraverso la forza o la manipolazione. E perché pensiamo che sia inevitabile, morale, il farlo. Insomma, perché crediamo sia giusto obbedire. Anche di fronte ai crimini più feroci e inauditi, qualcuno ha detto: ho solo obbedito agli ordini ricevuti. Tutto questo succede perché l'individuo, per omissione o trascuratezza, per paura o fede, o ancora per un comportamento ormai condizionato e privo di immaginazione, ha delegato la sua quota di potere a qualcun altro. Questa fuga dalla propria responsabilità ha generato nel corso della storia le mostruosità più drammatiche. Come ha ben documentato lo psicanalista libertario Wilhelm Reich, i dittatori hanno costruito senza alcuna eccezione il loro potere sulla irresponsabilità sociale delle masse umane. Psicologia di massa del fascismo, 1933. Per le persone anarchiche, dunque, l'obbedienza non è una virtù, perché obbedire significa appunto abdicare alla propria autonomia e alla propria responsabilità. Attraverso la pratica educativa dell'obbedienza, fin dalla più tenera età, noi apprendiamo a rinunciare a noi stessi a favore del volere di qualcun altro. Obbedire è la costante modalità attraverso la quale siamo sottomessi a una qualche autorità esterna a noi. Disobbedire significa allora rivendicare fino in fondo il nostro individuale diritto a scegliere e a decidere autonomamente. Il che non vuol dire non riconoscere in una volontà altrui una giusta causa o una corretta indicazione, significa piuttosto non eseguire mai passivamente un ordine e assumere sempre responsabilmente un comportamento. Poco importa che si obbedisca a un Dio, a una tradizione, a un'abitudine, a un potere tirannico o suadente, ciò che conta è rivendicare fino in fondo il proprio inalienabile diritto alla disobbedienza. Sicuramente la lotta più difficile è quella che si deve condurre per imparare a disobbedire ai comportamenti indotti, spacciati per coscienza, quando questa non è che l'insieme dei condizionamenti sistematici e profondi che gli esseri umani si sono imposti in nome di una presunta verità universale. Tutta la ricerca psicanalitica ha evidenziato attraverso quali meccanismi e quali ritualità in ciascuno di noi si sia insinuato un dover essere che non è altro se non un insieme di regole e prescrizioni attraverso le quali si perpetua il dominio dell'essere umano sull'essere umano. In questa società ormai secolarizzata, le divinità sono fantasmi consumistici che hanno sostituito le più tradizionali forme di autorità laica e religiosa, fantasmi capaci di penetrare nei nostri cervelli e nei nostri cuori con modalità sempre più efficaci e potenti e spesso del tutto inconsapevoli. come avevano ben compreso molti pensatori e pensatrici anarchiche, e come hanno descritto efficacemente Reich e poi Michel Foucault, è lo stesso immaginario collettivo a essere stato colonizzato attraverso una sapiente e tenace azione di condizionamento che ha fatto interiorizzare in ciascuno e ciascuna di noi il precetto dell'obbedienza, fino al punto di far pensare a tutti e tutte che obbedire sia solo obbedire a se stesse. In realtà non è così, e la disobbedienza è non solo necessaria, ma anche il primo e inevitabile atto di ribellione per chi desidera e pretende di rispettare se stesso, se stessa.